Sopravvissuti a troppi sorrisi avuti troppe volte senza un perché. Sopravvissuti alle nostre domande che son grosse, son tante, spesso ridicole. Sopravvissuti e sopravviventi così e adesso è qui. Sopravvissuti ai nostri progetti, acqua, sabbia e paletta e castelle così. Però se uno siamo ancora in piedi, non so chi, ma qualcuno si sentirà così. Persi o no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora che, siamo ancora chi. Siamo ancora chi, siamo ancora che ne so. Pensieri a consigli, sbadigli, falsi sensi unici. Sopravvissuti alle voci gridate, come troppi silenzi, come ai mormori. Sopravvissuti e sopravviventi, ma chi e che ne sa? Sopravvissuti ai sensi di colpa, c'è chi può e non ascolta, e cazzo c'è chi non può. Siamo ancora chi? Siamo ancora chi? Siamo ancora che ne so. Qualche isola. Sopravvissuti a vecchi e nuovi dolori, che aspettiamo i vaccini nel frattempo chissà. Sopravvissuti a tutto questo letame, quanti bagni e profumi e mascherine antigas. Sopravvissuti e sopravviventi, un po' su, un po' giù, un po' su. Sopravvissuti i 60, i 70, gli 80 finiranno mai più. Persi o no, siamo ancora in piedi. Non so chi, ma qualcuno si sentirà così. Persi o no, siamo ancora in piedi. Siamo ancora che, siamo ancora chi. Siamo ancora chi, siamo ancora che ne so.